in primo piano. Martedì 18 gennaio, a parte l'apertura del Sole 24 Ore, l'Euroclub della tripla A, allo studio il rafforzamento delle garanzie per il fondo Salva Stati, è il primo vertice dei sei paesi dell'Eurozona che sono al top del rating. E per il resto le aperture sono tutte sulle carte, sono arrivate e ci sono intercettazioni. Ieri avevamo fatto questa scommessa senza senso perché l'avrei stravinta, ovviamente. Tutto leggibile oggi sui giornali. Corriere della Sera, notti di Arcore, le carte contro Berlusconi. Per Repubblica, rubi le carte dello scandalo. La Stampa, rubi, ho chiesto 5 milioni a Silvio. Per il giornale, porno spioni di Stato. Libero, ecco le intercettazioni. Il Manifesto mette uno stuolo, una foto di ragazze riprese dagli slip in giù, quindi uno stuolo di gambe, catena di montaggio. Mentre per l'Unità, ostaggio nel bordello. Il Fatto Quotidiano, la tragedia di un uomo ridicolo. Il Messaggero, rubi, ecco le accuse a Berlusconi. Avete visto, questo è il menù che offrono i giornali. Non c'è giornale che non dedichi le prime 10-12 pagine a questa vicenda. Io voglio partire come al solito da qualche segnalazione curiosa o di altro taglio. Beh, intanto la prima la trovo sulla Stampa, pagina 18, dove si racconta la storia, Beniamino Pagliaro lo fa, di un vigile a Gorizia, identificato come Vigile 26, multe ironiche, aggredito. C'era un vigile che aveva questo vezzo di lasciare, e lo ha fatto tra Natale e Capodanno, alcune multe sui tergicristalli delle vetture dei goriziani, con la dedica. La dedica una, per esempio, era questa: costa così poco dare amicizia e bontà. Allegata una multa. Ora, non è che i goriziani l'abbiano presa benissimo, anche perché questo vigile pare che in passato si fosse reso artefice di alcuni episodi, come avere multato una persona che si affacciava al cancello di casa col cane senza la museruola, o al cancello di casa si era affacciato sulla via pubblica, oppure aveva multato una volta una signora anziana perché non aveva il campanello su una bicicletta. Insomma, come dice un barista al centro di Gorizia, al cronista della Stampa, è il classico vigile che prima o poi viene picchiato da qualcuno. Detto, fatto. Due giorni fa questo vigile è stato aggredito da un automobilista mentre era nell'atto di fare una contravvenzione. È in ospedale, sta bene, qualche contusione. Gli ha chiuso la gamba nella portiera questo automobilista, che non voleva assolutamente la multa. Multe ironiche a Gorizia, viene aggredito. La disavventura del vigile 26, alias Michele Furlan, sul quale si raccontano episodi leggendari a Gorizia. E poi io immaginavo che ci sarebbe stato qualche articolo, perché domenica, e vi assicuro, credetemi, mi è capitato per sbaglio, credetemi, ero sintonizzato su Barbara D'Urso la domenica sera, quando si fa zapping, queste cose qui, no? E ho visto apparire Francesco Nuti in video, dal volto molto molto segnato dalla malattia, e a un certo punto mi sono riscoperto quasi anche a ridere, e poi mi sono vergognato, ovviamente, perché non pensavo che la TV potesse scendere a così bassi livelli. E infatti ci sono almeno un paio di pagine sul Fatto Quotidiano. Federico Mello, Nuti, vergogna via etere, oltre la TV del dolore. La prima serata volge al termine, ma gli incauti telespettatori, che domenica alle 11 di sera erano a tirar tardi facendo zapping, ci sono rimasti di sasso. Sulla sfortunata trasmissione Stasera che sera di Barbara D'Urso compare Francesco Nuti, l'attore regista reduce della caduta casalinga di 5 anni fa che lo mandò in coma. Rimane muto durante il collegamento con Cologno Molzese, una maschera di dolore, si commuove, piange, ogni tanto si apre in un sorriso, una mano amica gli passa spesso un fazzoletto sulla bocca per asciugargli la saliva. Dallo studio Barbara D'Urso non dismette mai il suo sorriso d'ordinanza, sorride mentre legge una lettera al regista, sorride mentre presenta la compagna di Nuti, la ex compagna. Gli autori hanno fatto di tutto per far passare l'ospitata come una rimpatriata tra vecchi amici. Pieraccioni strimpella la chitarra, Mietta si augura di incontrare presto il regista. Eppure la sensazione che rimane incollata addosso a chi si guarda è quella del sacrificio di un uomo in difficoltà sull'altare degli ascolti. Ed è la stessa sensazione che ho avuto io anche sul giornale a pagina 27, un'intera pagina. Stasera che shock, la TV del dolore nel mirino per Nuti. C'è anche una foto che riprende Francesco Nuti in una proprio delle sue smorfie di dolore per via della malattia che l'ha colpito. Maurizio Caverzan racconta di un'impresa parsa subito molto ardita, quella di Barbara D'Urso, che cercava di porre tutto come fosse una festa, un rentrée di Francesco Nuti, che per la verità era apparso anche sui Fatti Vostri, su Rai 2, ricorda il giornale, attorno a novembre, quindi non è la prima uscita. Ma allora, racconta il giornale, la sua immagine ripresa un po' più da lontano, un po' più rispettosa sembrava. In ogni caso mi ha molto colpito e vi segnalo questi due articoli del Fatto Quotidiano e del giornale che censurano questa TV, altro che TV del dolore, ancora di più, di Barbara D'Urso, i cui risultati peraltro di questo programma della sera pare vadano malissimo e pare che lo show stia per chiudere. Qualunque quotidiano voi compriate oggi, trovate tutte le intercettazioni spiattellate, tutte, o meglio gran parte delle 389 pagine delle carte del caso Ruby, le carte dello scandalo titolo alla Repubblica, Notti di Arcore, le carte contro Berlusconi. Per districarsi in questa marea di pagine io ho selezionato qualcosa. Certo, il titolo per esempio a pagina 2 del Corriere della Sera è eloquente: carte a Montecitorio ed esplode il caso ragazze, in tante si sono prostituite, con il presidente della giunta dell'autorizzazione a procedere della Camera Castagnetti che dice in quei documenti un quadro degradante. L'accusa che trovate più esplicita su tutti i giornali è questo: il ricatto di Ruby al Premier, gli ho chiesto 5 milioni. La vicenda, per esempio, varie intercettazioni, vabbè, a parte, userò magari anche qua un linguaggio un po' più scurrile oggi, ma io leggo le intercettazioni. Per esempio, con un amico, così parla Ruby: fai come la napoletana, cioè Noemi, no? Il papi lo chiamava, e Ruby: no, la napoletana è un'altra cosa, quella è la sua pupilla, io sono il culo. E l'amico dice: quella è la pupilla e tu sei il culo. Oh vabbè, ho capito, meglio di niente, il culatello. E poi eccolo qui, Ruby che parla prima col padre. Silvio gli ha detto: dille che le pagherò il prezzo che lei vuole, l'importante è che chiuda la bocca, neghi tutto, dica che lei di essere pazza, l'importante è che lei mi tiri fuori da tutte queste situazioni. Io non ho mai visto una ragazza che ha 17 anni e non è mai venuta a casa mia. E poi ancora Ruby che parla con un'amica: è venuto da me, mi ha chiamato oggi lui, mi ha chiamato la segretaria due volte, mi ha chiamato il mio avvocato, mi ha chiamato Lele, è venuto il mio avvocato, dobbiamo trovare una situazione, un caso che supera quello della Daddario e di Letizia, perché tu eri proprio minorenne, adesso siamo tutti preoccupatissimi. Ma il mio caso invece, io frequento casa sua da quando avevo 16 anni, a parte che io ho negato tutto, ho detto no, sono andata a casa sua, ma lui pensava fossi maggiorenne. E poi ancora Ruby in un'altra telefonata: ho parlato con Silvio, gli ho detto che ne voglio uscire di almeno con qualcosa, cioè mi dà 5 milioni, però 5 milioni a confronto del macchiamento del mio nome. E ancora Ruby in un'altra telefonata: Silvio mi chiama di continuo, mi ha detto cerca di essere pazza, di passare per pazza, racconta cazzate, io ti sarò sempre vicino, mi fa, di qualsiasi cosa, avrai da me qualsiasi cosa tu vuoi, col mio avvocato gli abbiamo chiesto 5 milioni di euro. Ecco qui l'accusa, insomma, che c'è un po' su tutti i giornali, e cioè il ricatto, il silenzio vale 5 milioni anche per il Fatto Quotidiano, pagina 3. Nell'articolo di Marco Lillo, Carlo Tecce e Ferruccio Sansa, tre firme. In un'intercettazione Ruby dice: il prezzo per stare zitta. Berlusconi dice: bene, ma devi passare per pazza. Cioè non è Berlusconi che parla, ma Ruby che riferisce: Berlusconi mi ha detto va bene, ma devo passare per pazza. E poi, come detto, varie intercettazioni. Per esempio Emilio Fede con Barbara Fagioli, una delle ragazze presente in alcune di queste serate. E allora chiede Emilio Fede: con chi è rimasto? Due? E Barbara Fagioli: in realtà è rimasto con quelle due, poi c'era la Cinzia, poi c'era l'Anna, poi praticamente ieri è rimasto d'accordo anche che trovava la Maristelle, poi c'è quella lì, la pupa, quella che è fidanzata con Renzo Bossi, che è rimasta. Quale? E la biondona. Ah, quella lì, quella che gli piace da mo'. No, quella biondona. Secondo Repubblica, intercettazione abbastanza esplicita. Ci sono anche intercettazioni che racconta, per esempio, Giuseppe D'Avanzo su Repubblica, pagina 2, racconterebbero poi in realtà del modo molto schietto con cui alcune di queste ragazze si riferiscono allo stesso Berlusconi. Per esempio Barbara Fagioli stessa: dai, mi rimangono solo 1.000 euro, devo fare cassa per forza anche se la vedo buia questo weekend. O c'è chi va per le spicce: Iris ipotizza che lui voglia ridurre le cene e propone di rubare qualcosa in casa. C'è una che smania: che palle sto vecchio, guarda, fra un po' ci manda a fanculo tutte quante, questa è la volta buona che lo uccido, vado io a tirargli la statua in faccia, qua ci vuole a mandare a fanculo senza un cazzo? Tutto questo lo trovate sui giornali, mentre un'altra: Papi è la nostra fonte di lucro. E ancora, che dire, per esempio, sul Corriere della Sera, a pagina 5, Luigi Ferrarella, giusto per citare alcune cose che sono in alcuni giornali, che non le trovate in altri, perché negli altri trovate tutto in tutti i giornali. C'è anche il sospetto che in qualche modo Fede e Lele Mora abbiano chiesto un finanziamento di 1.200.000 euro a Berlusconi, con Fede che si sarebbe tenuto una parte di questi 1.200.000 euro, per la precisione 400.000, senza dirlo a Berlusconi. Il prestito a Lele Mora e la mediazione di Fede, io ne tengo un terzo. E secondo i magistrati l'accordo è all'insaputa del premier. Ma sarebbe, cioè, incredibile, cioè, Fede che ha tenuto una parte, ha detto a Berlusconi: dai un prestito a Lele Mora di 1.200.000 euro, ma senza dirlo a Berlusconi se ne è tenuto un 400.000. E infatti c'è questa intercettazione tra Lele Mora e Emilio Fede, si mettono d'accordo, con Fede che dice: possono diventare 1,5, immagino, di milioni, io ne prendo 4 e tu 8 di questi 200, di questo 1.200.000, va bene? Benissimo, dice Lele Mora, meraviglia, meraviglia, bravo direttore, bravo, ecco, risponde Fede, adesso la cosa è avviata, dimmi che sono bravo e sono un amico. No, no, bravo, di più, dice Lele Mora. Cioè, secondo Luigi Ferrarella sul Corriere, c'è questo prestito di 1.200.000 euro di Berlusconi a Lele Mora, con Fede che all'insaputa di Berlusconi se ne sarebbe tenute una parte, vale a dire 400.000 euro. Che dire di queste serate? Nicole Minetti, intercettata, spiega a un'amica: qua in queste serate c'è la zoccola, c'è quella che viene dalle favelas, quella un po' più seria, e poi ci sono io che faccio quel che faccio. E ancora Nicole Minetti a Emilio Fede: Maristel, che è un'altra ragazza, l'ha dovuta allontanare da Arcore, aveva in macchina droga e un coltello. Imma De Vivo con la gemella Eleonora dal Grande Fratello: è diventato pure brutto, deve solo sganciare, speriamo che sia più generoso. Lo stralcio delle telefonate è questo. C'è anche, e lo trovate sui giornali, le parole di un ex prefetto, Carlo Ferrigno, è stato prefetto a Napoli, intercettato, pare testimone di alcune feste, che sull'Unità a pagina 9 descrive così: là fanno le orge, che uomo di puntini puntini, c'erano orge, non credo, non con droga, non mi risulta, ma bevevano tutte mezze discinte, Berlusconi si è messo a cantare e raccontare barzellette, loro tre e 28 ragazze, tutte ragazze che poi alla fine erano senza reggipetto, con le mutandine strette. Bella roba tutta la sera. Questo parla con una persona, con un altro interlocutore. Ovviamente Nicole Minetti viene intervistata da Paolo Colonnello sulla Stampa. È l'unico Paolo Colonnello che è riuscito a strappare un'intervista a Nicole Minetti. A pagina 7 dice: non sono la custode dell'AREM. Non è che dice molto, bunga bunga, ma è una barzelletta, non leggo le intercettazioni. Su quella frase: deve briffare una ragazza, che vuol dire? Ma briffare vuol dire qualsiasi cosa, non certo che deve essere pronta a tutto. E riguardo alle case, qualcuno dice che ha 3 case intestate a lei. Chi le ha intestato questi appartamenti? Non intendo rispondere, dice Nicole Minetti. E questi appartamenti vengono fatti girare tra le ragazze? Non lo so. Ma chi le paga l'affitto? Il canone mi veniva rimborsato. Da chi? Non voglio dirlo. E poi io tornerei pure ad Arcore, non succede nulla. E adesso come si sente? Penso mi stiano rovinando la vita. Non pensa di essersela rovinata da sola? Chiede Paolo Colonnello. A Nicole Minetti salgono le lacrime agli occhi e rimane in silenzio. E poi c'è il Toto fidanzata, ancora per il secondo giorno, Fabrizio Roncone, intervista ancora Francesca Pascale, consigliere provinciale di Napoli, che dice: ho detto, insomma, dice: non sono io, non dico niente, non posso dire come stanno realmente le cose. Sentiamo prima Berlusconi. Cosa prova lei per Berlusconi? È un uomo adorabile, mi affascina da impazzire, lo giuro, sono imbarazzata, che le devo dire? Davvero non c'è nulla da dire. Poi finisce questa intervista e Fabrizio Roncone dice, a fine intervista, taccuino chiuso, dice, lei sul Corriere l'altro giorno ha scritto che ho un gran viso e la ringrazio per questo, solo che a Napoli si dice, hai un bel viso, a quelle che poi sono un po' cesse, mentre scusi mi ha visto bene di spalle? E Carlo Rossella invece su Libero a pagina 13 dice la fidanzata c'è e c'è già da un anno, la sua Carla presto andrà a convivere con lui, tutti gli occhi sono puntati, tutti gli indizi portano a Roberta Bonasia, 26enne, di cui il premier risulterebbe molto preso. Suo papà, papà Gino, sentito brevemente dal Corriere della Sera, Nichelino, sobborgo operaio di Torino, guardi, ma è sua figlia la fidanzata di Berlusconi? Sarebbe una fortuna, altro che magari. E vabbè, ci sono anche tantissimi commenti, segnalo su Libero un Giampaolo Pansa che dice braccato dai PM, forse deve dimettersi, e invece Maurizio Belpietro che risponde sempre su Libero, no, è proprio quel che vogliono, l'unica via è resistere. C'è in prima pagina di Repubblica Ezio Mauro, il direttore. Il titolo dell'editoriale è il capolinea. Siamo dunque arrivati alla domanda capitale del tragico quindicennio berlusconiano. Può governare un paese democratico un leader che da giorni è lo zimbello del mondo per i festini con minorenne, prostitute pagate, travestite da infermiere per eccitare il satrapo stanco? Con ogni evidenza no. Mentre Sallusti, in prima pagina del giornale, il direttore del giornale Alessandro Sallusti, dice la verità, il diritto, la dignità di uomini e donne non contano, centinaia di frasi prese a caso da migliaia di ore di intercettazioni il cui contenuto non solo non è verificato ma in molti casi ambiguo e contraddittorio sono stati dati in pasta all'opinione pubblica. Leggendo le carte adesso è chiaro cosa è successo, un potere dello Stato ha semplicemente spiato per mesi un altro potere. Su questa cozzaglia di parole è stato montato un processo che ricorda quello dell'Inquisizione. Mentre io vi segnalo anche in prima pagina di Avvenire, ma davvero ho fatto un riassuntone di tutto quello che c'è perché c'è tantissimo, in prima pagina di Avvenire l'editoriale del direttore Marco Tarquinio, chiarezza necessaria, non so come si concluderà l'indagine milanese. So che i reati che avrebbe commesso Silvio Berlusconi sono concussione e prostituzione minorile. Il primo è il più grave, ma il secondo, la prostituzione minorile, sul piano della valutazione morale addirittura insopportabile. I lettori di Avvenire del resto conoscono bene le nostre battaglie contro l'infame industria della prostituzione, contro la pedofilia in tutte le sue forme, comprese quelle mercenarie. E poi conclude, salto alla fine, ci si deve interrogare su questo. In qualunque campo, quando si ricoprono incarichi di visibilità, il contegno è indivisibile dal ruolo, annotò lo scorso 27 settembre il presidente della CEI, cardinale Angelo Bagnasco. Non so, insomma, come si concluderà l'indagine milanese a carico del presidente Berlusconi, ma so che deve concludersi presto. A noi italiani, comunque la pensiamo, comunque votiamo, è dovuto almeno questo, un'uscita rapida da questo irrespirabile polverone. E ognuno deve fare per intero la propria parte perché questa avvenga con tutta l'indispensabile pulizia agli occhi dell'Italia e del mondo. Secondo il Corriere della Sera, pagina 3, Berlusconi ieri ha telefonato al capo dello Stato napolitano, cercano di eliminarmi con violenza. E Marco Galluzzo che rivela questo dietro le quinte, ha sentito il bisogno di chiamare al telefono un preoccupato napolitano, una telefonata diretta al Quirinale, una cosa i due presidenti la condividono al di là del giudizio sulla vicenda, chi ne esce con le ossa rotte è innanzitutto il paese. E con anche Berlusconi che avrebbe detto è un'indecenza aver definito prostitute quelle ragazze, molte sono madri di famiglia, brave ragazze. Tra l'altro invece Libero racconta di un'altra telefonata che c'è stata tra il Quirinale e invece stavolta Gianni Letta. È Elisa Calessi in prima pagina di Libero. Letta chiama Napolitano e spunta il nome di Tremonti. Questo è Libero. Si sono sentiti varie volte, come sempre capita quando la situazione si fa delicata, è Gianni Letta a curare rapporti col Quirinale, a garantire un canale di comunicazione con Palazzo Chigi, così anche in quest'ultima vicenda. Gianni Letta ha sentito Giorgio Napolitano e il convitato di pietra che ritorna nelle valutazioni che ieri si facevano nel Partito Democratico, a questo punto diventa centrale, Tremonti. Si andrà alle elezioni, non si andrà alle elezioni, chi lo sa, sta di fatto che per Repubblica il PD, il PDL non esclude le elezioni nel bunker, mentre per altri proprio Berlusconi dice le elezioni ora no perché mi vogliono mettere sulla graticola. Insomma, sta di fatto che questa vicenda oggi, con le parole, con gli stralci e intercettazioni sui giornali, e lo sarà ancora a lungo, per vari giorni potete starne certi. Ci sono anche gossip e particolari anche un po' più scabrosi, sì, li andate a trovare sui giornali, ci sono. Vi segnalo sulla vicenda Mirafiori oggi Repubblica con il suo direttore Ezio Mauro, intervista l'amministratore delegato della Fiat Sergio Marchionne, un'intervista che troviamo in prima pagina. Marchionne, la Fiat, l'accordo non si tocca, darò gli utili agli operai. All'interno 14 e 15 le pagine, due pagine di intera intervista a Sergio Marchionne, che dice: io so che il progetto della Fiat è passato perché ha convinto la maggioranza dei dipendenti, questo è ciò che conta. Però Ezio Mauro dice: non le viene in mente di sedersi a un tavolo adesso che lei ha vinto ma di poco? Io non capisco, non sono ingenuo, ma sinceramente non capisco, risponde Marchionne. È la logica del retrade, del negoziato continuo per il negoziato, non per arrivare a un risultato. Sono allibito. Mi dispiace, ma sabato mattina alle 6 le urne hanno detto che il sì ha avuto la maggioranza. Il discorso è chiuso, anche se dentro quella maggioranza molti cercano il pelo nell'uovo. Beh, è più di un pelo, chiede Ezio Mauro. Lei lo sa bene, senza gli impiegati il sì sarebbe passato con uno scarto di appena 9 voti. Cosa vuol dire questo? Niente, risponde Marchionne. Possiamo esercitarci all'infinito, togliere i lavoratori alti, quelli baffi, quelli bassi, quelli coi baffi. Conta il saldo, cioè il risultato, nient'altro. E poi dice in questa lunga intervista che sintetizza Marchionne: non abbiamo compresso alcun diritto nella nostra proposta di nuovo contratto. Beh, le pause, la rappresentanza, lo sciopero, la malattia, qui le condizioni cambiano, chiede Ezio Mauro. Un conto è parlarne da fuori politicamente, un conto è parlarne in fabbrica. La rappresentanza, oggi un lavoratore su due a Mirafiori sceglie di non averla, non iscrivendosi a alcun sindacato, risponde Marchionne. Cambiano le pause, ma abbiamo fatto un gran lavoro per rendere meno pesante il lavoro in linea, lo faremo ancora. Il no allo sciopero riguarda solo gli straordinari, è un obbligo contrattuale. Sulla malattia interveniamo solo sui picchi di assenteismo. E ancora sulla vicenda grazie a Chrysler l'Alfa non la vende, fossi matto, è roba nostra. Poi Marchionne che dice: mi fa incazzare di più il fatto che mi dicano di essere poco italiano. Manager canadese è l'ultima di tutta una serie che arriva a dipingermi addirittura come anti-italiano. Io ho il passaporto italiano esattamente come lei. Rispetto lo Stato, il paese, i lavoratori, perché credo sia giusto. E infine il progetto di far partecipare agli utili lavoratori. Sì, ci arriveremo, voglio arrivarci, ma prima di parteciparli, gli utili dobbiamo farli. Questa è l'intervista che trovate su Repubblica a Sergio Marchionne. Tra l'altro, su questo Il Sole 24 Ore, con Giorgio Pogliotti a pagina 5, ci ritorna con lo stop alla Camusso da CISL e UIL, sindacati già divisi sulle nuove regole per definire la rappresentanza. Per le segnalazioni finali, io non so che ora devo chiudere, ma ora Peter so che mi farà un cenno tra un minuto, pochissimo. E allora che devo segnalare? Solo questo fatto. Ladra, no cleptomane, e il giudice la assolve. Lo leggo dal Messaggero. Una studentessa romana, racconta Martina Di Berardino a pagina 12, è stata assolta perché, nonostante abbia rubato, non è una ladra per il giudice, ma una cleptomane. La differenza è sostanziale, perché per il Tribunale di Roma questo è un vortice compulsivo, una vera e propria malattia. Era stata beccata a rubare alcuni capi d'abbigliamento, a smascherarla era stato un agente della sicurezza, ma lei è stata assolta. Incapace di intendere e volere, ora è in cura da uno psichiatra. Ladra? No, cleptomane. Così il giudice l'assolve. Allora, in 10 secondi, volete una delle leggende sfatate oggi da Danilo Mainardi a pagina 24 del Corriere della Sera? I lupi non è vero che ululino alla luna. Non è vero che il lupo ulula alla luna. Animali da leggenda, false credenze. Ne volete un'altra mia personale? Non è vero che lo struzzo mette la testa sotto la sabbia. A me piacciono gli struzzi, ve lo posso assicurare. Non esiste uno struzzo al mondo che abbia mai messo la testa sotto la sabbia. E perché si dice, boh, il GR?